si svegli oggi con me. Buongiorno dottoressa, pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po', ci siamo un po'. Qua siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, benvenuta. Dottoressa, grazie. Un giorno nuovo, spero che sia buono anche per te. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maccherone, mai provocato, io me ne magno. Cuore e denari Expo. Oggi, prima puntata di Cuore Danari Expo, 8 profili, 2 coach, un medico e un nutrizionista con un obiettivo comune, raccogliere la sfida di Expo e trasformare lo stile di vita. Un cambiamento che vogliamo però fare alla Cuore Danari, cambiare per stare meglio, per aggiungere gusto e salute alla propria vita, con un occhio al portafoglio e uno all'ambiente. Più energia, più vita, meno sprechi e più salute. Deborah. Proprio così, questa è la filosofia di Expo, l'importanza della nutrizione ma anche di un consumo consapevole, sostenibile e, come diceva Nicoletta, compatibile anche con il budget finanziario della famiglia. Questo è importante. Allora, se volete essere dei nostri, andate sul sito di Radio 24 e alla pagina Cuore Denari, completate il questionario e lasciatevi guidare dai nostri esperti che per 4 settimane vi accompagneranno passo dopo passo con consigli alimentari, ricette e indicazioni per mangiare bene. Ma in questo spazio ci saranno anche i consigli per spendere meglio e spendere meno, possibilmente, tanti approfondimenti sui mestieri che ruotano attorno al mondo del cibo. Sarà il nostro modo per diventare più consapevoli di tutto ciò che orbita attorno alle filiere produttive, ma soprattutto alle eccellenze italiane. Allora, attiviamoci se volete partecipare e diventare quindi capofila di una tra le categorie che abbiamo scelto: over 50, stressati, conviventi senza figli, sportivi, donne in gravidanza, vegetariani, coppie con figli piccoli, compilate il questionario. Se volete diventate sostenitori, individuate il vostro profilo e seguite il vostro beniamino sulle pagine del nostro sito, lasciate commenti, suggerimenti, ricette, consigli. Ogni condivisione sarà utile ai nostri candidati. Aiutateci insomma un po' a prendere il ritmo e passo dopo passo formerete una piccola comunità che, guidata dai nostri esperti, porterà Expo nelle vostre case, nella nostra vita, nutrimento, energia per la vita. Noi siamo pronti? Salite a bordo allora di Cuore e Denari Expo, perché si parte! Molti di voi hanno già aderito e qui con noi per darci il polso della situazione c'è il dottor Attilio Speciani, allergologo, immunologo a Milano e direttore scientifico di eurosalus.com, che ospita i questionari sul suo sito, i questionari di Cuore Denari sul suo sito. Buongiorno dottor Speciani. Oh, buongiorno, cerco di rubare il lavoro a Deborina. Che ah, sì, così esatto, proprio, sì, cominciamo quando, così. Quando la sento snocciolare i dati di borsa, io come tutti i mercoledì riusciremo a riprendere il filo dei questionari che sono arrivati. E ad esempio abbiamo tra i questionari arrivati che ci sono un 80% di donne ad esempio che hanno risposto rispetto a un 20% di maschietti. Bisogna dire che le persone che sono rimaste che evitano di fare, tra i sedentari ovviamente, quindi che evitano di fare attività fisica, sono il 43%, dicono che hanno mancanza di tempo, e gli altri dicono per pigrizia, quindi c'è, cioè, interessante. Però devo dire che abbiamo una caratteristica che un po' identifica anche i lettori esperti di, gli ascoltatori esperti di Radio 24. Perché? Perché è una cosa che accomuna tutti, ad esempio dicono non sono soddisfatti della propria forma fisica, però ad esempio hanno degli elementi estremamente positivi che sono, io dico, da persone già evolute. Il 71% non usa zuccheri ad esempio nel per usare la dolcificazione nel caffè, nel tè, quindi ci sono degli aspetti francamente positivi. Devo dire, prima di cedere, un 57%, poi avremo modo di discuterne, il 57% non mangia proteine a prima colazione. So che intanto quelli che io seguirò voglio aver 50 dalla settimana prossima, e quindi per favore iscrivetevi, mettetevi in nota, perché sarà uno dei temi cardinali. Siete avvisati, se volete prendere delle scudisciate dite che non mangiate proteine al mattino a colazione e poi ci ragioniamo. Però so che anche Ungaro oggi con i sedentari avrà da lavorare su questo tema. Concludo rapidamente, diciamo che mediamente quando vanno a fare la spesa danno un occhio primitivamente ai valori nutrizionali, poi alla data di scadenza e poi al prezzo. Quindi un dato interessante da mettere tra le preferenze di queste persone che hanno risposto al questionario. Che commenteremo con il nostro ospite di denari, già chiamiamolo così più tardi. La puntata di oggi, come anticipato, è dedicata ai sedentari. Ci rivolgiamo quindi a 23 milioni di italiani, un target ampio e variegato, e una sfida, diciamola, abbastanza impegnativa, ma non impossibile. Per vincerla ci siamo affidati ad una coppia di esperti spaziali. Il dottor Filippo Ungaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging, e lo chef Stefano Polato. Buongiorno a tutte e due, buongiorno al dottor Ungaro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi è piaciuta la musica di Rocky, ovviamente, e anche i dati di Attilio sono molto interessanti, perché indicano che a forza di martellare su alcuni messaggi, i concetti passano effettivamente, no? Certo, i sedentari sono una sfida difficile, forse anche più complessa di quella legata al solo mangiare. Per vincere la sedentarietà non basta fare delle scelte diverse, scegliere un alimento più sano rispetto ad un altro, perché occorre ovviamente investire del tempo. Abbiamo sentito che una buona percentuale di chi sta aderendo a questa iniziativa dice proprio di non avere tempo, occorre sudare, faticare un pochino, eppure i benefici dell'attività fisica sono davvero enormi, in particolare se si associa l'attività fisica ad una sana alimentazione. I benefici, lo sappiamo, non sono soltanto corporei, ma sono addirittura anche psicoemotivi, toccano sfere come la qualità del sonno, il tono dell'umore, quindi insomma l'attività fisica è un aspetto molto importante della nostra salute. In Italia non abbiamo un record molto positivo che riguarda l'attività fisica, ma è anche vero che quando diventa un'abitudine poi tutto risulta piuttosto facile, insomma diventa un pochino come lavarsi i denti. Insomma, all'inizio costa, ma alla fine paga, diciamo così, per dottor Ungaro. Esattamente, occorre uno sforzo all'inizio, poi diventa parte della sua vita. Magari questo sforzo ce lo renderà più dolce, senza il dottor Speciani che senza dolcificare. Stefano Polato, ciao Stefano. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Sì, sono in linea completa con la filosofia del dottor Ungaro, nel senso che anche in cucina purtroppo bisogna faticare, bisogna impegnarsi, e attraverso la cucina cercheremo proprio di far amare i piatti, anche quelli meno impattanti per il nostro fisico, ai nostri concorrenti. Quindi la cucina e la pratica ai fornelli sarà il primo step. Mi piace questa pratica, che rimanda anche ad altri, no? Ad altre immagini. Allora, la categoria dei sedentari è ampia e variegata, lo abbiamo detto, ma in base a quali caratteristiche, dottor Ungaro, si rientra nella categoria? Al di sotto di quanti passi, per così dire, si diventa sportivi da divano? Ma insomma, qui bisogna fare una distinzione che spesso trascuriamo, che è quella tra il movimento fisico nella vita quotidiana, cioè il camminare, l'andare in bici al lavoro, il fare le scale, dall'attività fisica invece programmata, che diventa un vero e proprio allenamento. Allora, le linee guida prevedono di fare un'attività, un movimento fisico nella vita quotidiana il più spesso possibile, ma poi prevedono anche da 3 a 5 volte alla settimana un'attività di tipo aerobico un pochino più intensa, quindi una camminata veloce, una corsetta, un giro in bicicletta, però già più orientata ad un vero e proprio allenamento, in cui insomma non ci fermiamo a vedere le vetrine o andiamo a fare la spesa a piedi, ma pianifichiamo del tempo per fare proprio un'attività allenante. E poi, oltre a questo, vengono addirittura suggerite almeno 2 volte alla settimana un'attività più legata alla forza, allo sviluppo dei muscoli, che può essere fatto con i pesi, con gli elastici, anche a corpo libero. E quindi insomma, nel suo complesso stiamo parlando di un certo impegno. Io quando alle volte sento le persone che dicono faccio attività fisica una volta alla settimana, è meglio di niente, ma insomma è oggettivamente, come dicono a Milano, piuttosto che niente, è senza dubbio vero, però diciamo non ci si può aspettare dei grandi risultati. Inoltre, un'altra cosa che sottolineo è che è la regolarità degli allenamenti ciò che veramente paga nel tempo. Meglio allenarsi magari anche una volta in meno alla settimana, ma farlo per degli anni, piuttosto che allenarsi 5 giorni alla settimana, ma dopo un mese smettere. Ecco, l'exploit non funziona. Allora, e questo è il mese, peraltro, no? Dell'exploit anche delle palestre. Sedentari per piacere o per dovere, 800 24 00 24. Chiamateci, seguiteci, diteci perché il divano ha per voi un fascino così speciale, quali sono le ragioni che vi impediscono di seguire le raccomandazioni del vostro medico, delle persone che vi amano e che vi spronano a inserire nella vostra quotidianità un po' di tempo. Basterebbe 30 minuti per muovervi un po', giusto? Almeno per iniziare. Dottor Ongaro, come proverà a convincere chi ci sta ascoltando che la sedentarietà non è una condizione di normalità, bensì la causa di tanti problemi? L'ha anticipato, dall'insonnia all'irritabilità, e andiamo poi naturalmente anche a tutte quelle malattie che noi etichettiamo come malattie del benessere, che hanno proprio nella sedentarietà una delle cause scatenanti. Sì, senza dubbio, a partire ovviamente dal sovrappeso, l'obesità, la sindrome metabolica, l'infarto e quant'altro, però devo dire la verità, io non credo che occorra più di tanto convincere, non è secondo me il termine più giusto, nel senso che la maggior parte delle persone sa benissimo che essere sedentario non va bene, sa molto bene che fare attività fisica è meglio che guardare la televisione, ma fa fatica, nonostante queste conoscenze, a cambiare stile di vita. Quello che manca e quello di cui penso le persone abbiano più bisogno sono dei suggerimenti pratici su come fare. Alle volte si investe in delle cose che danno dei risultati scarsi, si perde tempo con delle altre. Il problema più grosso, ma anche dalla mia esperienza insomma in ambulatorio, è davvero l'idea, che può essere più o meno vera, di non avere tempo per fare attività fisica. Voglio leggere quindi il messaggio di Patricia che ci scrive da Monza. Devo passare delle ore al PC, ho messo la cicletta al posto della sedia, ogni volta che ho l'opportunità pedalo. 349-238-6666 per mandarci messaggi, ma aiutateci anche voi da casa, diventate, attenzione, inviati di Cuore Denari Expo. Il compito che vi assegniamo oggi è molto impegnativo e sarete adeguatamente ricompensati con il kit dell'inviato, che Deborah, raccontiamolo un po', certo. C'è tanta roba, come esatto, si dice. Consiste in una borsa di PVC con maglietta di Radio 24, la Moleskine, quindi l'agendina per prendere appunti, penne e cappellino per servirsi naturalmente in caso di pioggia, e per questa prima parte vi chiediamo di provare a fare un'operazione convincimento. Sì, di convincere un sedentario a diventare attivo. Vale tutto, la vostra esperienza personale, uno slogan, un proverbio, una promessa allettante, un dato, insomma, con le buone e con le cattive provateci. Se superate la barriera rosa, anche quella è una bella difficoltà, diventate automaticamente inviati, perché vi manderemo in onda, e riceverete a casa tutto l'occorrente. Quindi mano alla cornetta, candidatevi, e per aiutarvi vi facciamo sentire alcune delle scuse più utilizzate. Non ho tempo. Ho il ginocchio che non tiene. Non ho più l'età. Ho trovato un altro hobby. Correre mi annoia. La palestra, roba da ricchi. Troppo sport uccide. Non mi piace l'ambiente, troppo competitivo per me. Chiamate il nostro numero verde, provate a capovolgere la situazione. Se ti muovi ci guadagni, perché? Quindi forza, inviate, chiamateci, superate, come invitava poco fa Nicoletta, la barriera rosa, prenotatevi ora. Noi a partire anche dalle 11.45 ascolteremo i vostri consigli, gli incitamenti, i migliori suggerimenti per i nostri sedentari o i vostri, quelli che vi siedono accanto. Dottor Ongaro, prima di presentare la nostra sedentaria andiamo a dare delle indicazioni molto rapide, ma raccogliamo tutto quello che ci serve per accendere dei pensieri. Il primo concetto che vogliamo sottolineare è che per la nostra salute è più importante essere attivi che magri, un concetto che lei ben spiega nei suoi libri. Sì, premesso che vorrei anch'io il kit dell'inviato, perlomeno del corrispondente, da Treviso, io vorrei. Va bene, deve darci esatto. Le sue misure. Dottor Ongaro ha un fisico bello palestrato. Vabbè, comunque adesso quello tornando alla domanda, sì, indubbiamente è vero, la magrezza viene spesso interpretata solo sulla base del peso, ma in realtà può rappresentare una carenza di muscoli, quindi non basta il peso come valutazione. Oggi è molto più utile valutare veramente la composizione corporea in modo da sapere quanta massa grassa c'è e quanta massa muscolare, no? La debolezza muscolare che spesso c'è nella magrezza può essere poi associata anche a una scarsa densità ossea, quindi non è detto che se una persona non è in sovrappeso possa stare tranquilla e non muovere. Perché quello che non usiamo lo perdiamo, e succede anche così con i nostri muscoli, certo, che sono di solito il muscolo del sedentario un po' svuotato, direi, un po' svenuto. Quale muscolo? Allora, e tra i sedentari, quindi faremo un distinguo tra quelli normopeso o magri e quelli sovrappeso. In questi, dottor Ongar, individuiamo due categorie: sedentari mela e sedentari pera, due frutti che raccontano due diversi tipi di distribuzione del grasso. Beh, allora, indubbiamente, se questo è abbastanza noto, a mela sono soggetti più metabolici, diciamo che è un tipo di sovrappeso leggermente più grave sul piano del rischio cardiometabolico, ma da un certo punto di vista più facile da gestire con la dieta e l'attività fisica. Invece il sovrappeso a pera, più tipico delle donne, dipende maggiormente dagli ormoni, si tratta più spesso di grasso sottocutaneo, meno pericoloso ma un pochino più difficile da trattare, ci vuole un approccio nutrizionale ma soprattutto un'attività fisica più mirata, in particolare alle zone interessate. Bene, Deborah, allora la presentiamo? La presentiamo, la nostra, come dire, proprio primissima candidata al progetto Cuore Denari Expo. La sedentaria, anche ammettere di esserlo, penso che non sia proprio facile, no? È stata brava. È stata molto brava, e quindi oggi vi presentiamo Anna Maria, che diventa la testimonial per Cuore e Denari Expo dei sedentari. Sentiamola. Anna Maria ha 48 anni, è una donna sposata e madre di due ragazze di 25 e 20 anni. Lavora come dipendente pubblico in provincia di Milano e si ritiene molto interessata al proprio lavoro e allo studio in generale. Tanto che attualmente frequento un corso per acquisire la laurea magistrale in scienze politiche, e specificatamente in un corso chiamato amministrazione politiche pubbliche, proprio perché lavoro nel pubblico. Il suo ideale di donna è Sharon Stone. Sharon Stone. E anche dopo l'esperienza di malattia, insomma, la sua determinazione a tornare ad essere quella che era. Se dovesse descriversi attraverso un piatto, Anna Maria sceglierebbe l'insalata. Un'insalata anche magari molto colorata, nel senso magari piena di carote, mais, insalata verde, piuttosto che qualsiasi altro tipo di ortaggio che possa essere inserito in un'insalata. E a me tendenzialmente comunque è sempre piaciuta frutta e verdura, di fatto da un po' di anni non mangio più carne, ma per scelta, ecco, non per questioni etiche. Mi piaci! Alta 1,55 m per 50 kg di peso, Anna Maria definisce però la forma del suo corpo a pera, con dei piccoli problemini di cellulite. Fare la spesa il venerdì sera insieme al marito è diventata una piacevole abitudine. Mi piaci! Io faccio solitamente una spesa grossa una volta a settimana al supermercato e poi durante la settimana prendo solo il pane fresco. Anna Maria, sei la nostra candidata per la categoria dei sedentari a Cuore Denari Expo. Mai guardarsi indietro e tirare dritto per la propria strada. L'ho inventato io. Mai guardarsi indietro e tirare dritto per la propria strada è il motto di Anna Maria. Anna Maria è in linea con noi. Ciao Anna Maria, benvenuta. Benvenuta. Grazie. Grazie mille a tutti, buongiorno a tutti. Anna Maria, sei pronta? Perché hai ancora tempo per ripensarci, ma se accetti, allora lì te la devi giocare, quindi devi impegnarti con i sedentari all'ascolto, perché seguiranno te. Tu sarai un po' il loro faro, Una bella responsabilità. Certo, un po' come alle Olimpiadi il portabandiera, no? Anna Maria, ecco. Beh, una bellissima immagine. No, sono prontissima, nel senso che considero questa esperienza come un regalo che faccio a me stessa, per cui perché mai rifiutare un regalo? Allora, Anna Maria, troverai tutto pronto per te alla fine di questa puntata, la troverete anche voi che vi identificate nel profilo di Anna Maria. Noi ti lasciamo al tuo lavoro, tu vai a lavorare e noi lavoriamo per te. Perfetto. Un abbraccio Anna Maria. Anna Maria, ciao. Grazie, un saluto a tutti. Dottor Ongaro, Anna Maria è pronta e motivata? Che cosa ha pensato per lei? Riesce a, in sintesi, raccontare, e così poi passiamo anche la palla a Stefano, a dare un assaggio di quello che è il programma che avete cucito su misura su Anna Maria? Ma io credo che Anna Maria rappresenti ovviamente un caso abbastanza tipico e il lavoro da fare non sarà secondo me difficilissimo. Io credo che sarà necessario fare un'attività di tipo aerobico, magari da fare al mattino, selezionando in maniera specifica la tipologia di esercizio anche sulla base delle zone che vogliamo trattare di più, da fare al mattino magari presto a digiuno prima di colazione e aggiungere poi nel corso della settimana almeno due, possibilmente tre allenamenti invece con i pesi, sempre per le zone che sono come incriminate, un pochino più ostiche, più difficili da trattare, ecco. Naturalmente questo programma di allenamento lo trovate anche sulla pagina del profilo di Anna Maria, e quindi lo seguiremo un po'. Hai fatto bene a ricordarlo, perché molti ascoltatori stanno chiedendo: ma insomma, scopro adesso il vostro progetto, come posso fare a candidarmi? Allora non hanno sentito le altre puntate. Vabbè, allora adesso andate sul sito di Radio 24, trovate l'immagine di Cuore Denari Expo, dentro ci sono vedete tutte due le due bellissime donne con le cuffie, allora fermatevi. E poi tante informazioni e le modalità per andarsi a profilare. Tutte le informazioni finiranno sulla piattaforma Eurosaurus del dottor Speciani, che poi ci racconterà strada facendo cosa emerge da tutta questa raccolta dati, come ha già fatto questa mattina. Allora, abbiamo anticipato un po' che cosa sarà il programma di attività fisica che il dottor Ongaro ha pensato per Anna Maria. Andrea mi sta facendo segno che è tempo dei mercati. Mamma, allora mia, intanto vi dico che tra poco poi metteremo mano al faremo due conti con il naturalmente, perché noi vogliamo anche monetizzare, no, questo cambiamento, quanto ci costa. Il dottor Ongaro e Stefano Polato torno tra le 11:45 e le 12, ci completeranno, racconteranno che cosa faranno di Anna Maria. Intanto inviati, mi raccomando, 800 24 00 24, mandateci una vostra idea, un vostro consiglio, uno slogan, un dato, una proposta per convincere un sedentario a darsi una mossa. Se superate la barriera rosa e andate in onda, riceverete il vero kit dell'inviato di Cuore Denari. Tu ce l'hai? No, però allora se fai i mercati te lo regalo. Va bene. Cuore e Denari. Riusciamo a fare la spesa, mandaranci me. E ora è il momento di fare la spesa, cara mia. A te lo chiedono così? So che tu l'hai già fatta peraltro stamattina fatta. E ti sei portata anche a casa una bella cassa di uno dei prodotti di cui parleremo questa mattina, che è anche protagonista, ma non voglio anticipare troppo, di una grandissima e ottima ricetta del nostro chef. Allora, abbiamo sentito i consigli dei coach per la nostra Anna Maria, naturalmente per tutti i nostri amici all'ascolto che si riconoscono nel profilo del sedentario, che magari hanno proprio compilato sul sito di Radio 24, i ritardatari possono ancora farlo, il questionario relativo a questa categoria. Vi ricordiamo che è online da oggi una sezione speciale del nostro sito dedicata proprio al progetto Cuore Denari Expo, dove troverete tutti i consigli settimana dopo settimana per ciascuna categoria per migliorare le abitudini in cucina, sia dal punto di vista del cuore che da quello dei denari. Dal punto di vista delle capacità culinarie, secondo te posso fare qualche miglioramento? Sì, perché ad esempio Stefano, vero sì. Stefano, tu insomma aiuterai anche il tuo protetto a acquisire un pochino più di capacità in cucina, suggerendo delle tecniche di cottura piuttosto che altre? Assolutamente sì, e la cosa non risulta neanche tanto difficile, perché io ho identificato un po' di stratagemmi e di soluzioni che in cucina aiutano anche a risparmiare tempo. Metodi di cottura che non siano particolarmente difficili, appunto per agevolare anche il nostro assistito, chiamiamolo così. E quindi voglio dire, fondamentalmente queste tecniche sono anche quelle meno impattanti per l'alimento, quindi sono quelle che oggi vengono definite metodi di cottura gentili e soft, che tendono a preservare al massimo i valori nutritivi degli alimenti. Quindi uniamo l'utile al dilettevole, ossia proponiamo cotture semplici, veloci, che però allo stesso tempo sono le più adatte per mantenere inalterati le qualità dei nostri ingredienti. Se gli alimenti sono di qualità, naturalmente tutto aiuta, se poi costa tutto in maniera ragionevole, questo è ancora meglio. Allora, buongiorno e benvenuto a Luciano Mazzone, amministratore delegato e fondatore di Clicca Promo, pazzi per le offerte, benvenuto. Buongiorno a voi. Anche lui colleghi a suo modo sarà un po' un nostro coach, no? Per ogni settimana stilare la lista della spesa, comporre poi il carrello ideale sulla base dei suggerimenti dei coach della prima parte del nostro programma. Prima di darle la parola a Mazzone, vorrei fare una richiesta precisa ai nostri ascoltatori che, come abbiamo detto in questo appuntamento speciale, vogliamo invitare a diventare inviati di Cuore Denari Expo, e in questo caso inviati per mercati e supermercati delle vostre città. Se ci siete stati da poco stamattina e vi ricordate un prezzo, se proprio in questo momento magari con le cuffiette andrete a fare la spesa, vogliamo un vostro reportage su un prodotto in particolare, anzi magari ve ne do due o tre. Intanto vorremmo che ci raccontaste il prezzo che state trovando del mais, perché lo ritroveremo più avanti con un breve approfondimento nell'ultima parte della trasmissione. Come lo trovate commercializzato, quanto costa al supermercato sotto casa, in che formato lo acquistate e per cucinarlo in che modo. Poi, se anche ci mettete insieme magari gli asparagi, ci farebbe piacere sapere quanto costano anche questi prodotti di assoluta centrale. E già che di siete stagione. Lì che fate un giro, dottor Speciani, la nostra Anna Maria ha detto che si riconosce come un'insalata. È fantastica, infatti, quindi anche questo. Ecco, le insalate, allora comperate quella di quarta gamma, comperate l'insalata quella fresca, certo, sul mercato, la lavate, acqua, no? Sciacquate ripetutamente, quindi diteci, raccontateci. Dottor Ongaro, vedo che la parola insalata... No, io mi sono... Dottor Speciani. No, mi piace. Per me l'insalata è una delle parti fondamentali che richiama il crudo vivo e colorato, fondamentale per già tutto. Sapevo. Però a parte questo, io devo dire che mentre adesso stava descrivendo tutti i vari tipi di insalata che si trovano, devo dire che apprezzo sia quando taglio l'insalata del mio orto d'estate, quando c'è, quindi mi piace anche lavarmela, pulirmela foglia per foglia. Un uomo da sposare. Parte, grazie. Poi, però dall'altra parte mi piace anche quando so che sono di fretta e che ho poco tempo, anche un'insalata già pre-lavata. Bravo. La scelgo. Cioè, io credo che dobbiamo essere flessibili, capaci di adattarci alle esigenze individuali per puntare al benessere. Parola d'ordine e buonsenso anche in questo senso, in questo campo. Allora, Luciano Mazzone, volei raccontare con lei molto rapidamente, ricordarlo magari perché molti ascoltatori se lo ricorderanno già, l'abbiamo invitata anche in passato, che cosa fa Clicca Promo, pazzi per le offerte. Poi spiegheremo anche qual è il contributo che ci avete dato in questo nostro percorso speciale Cuore Denari Expo, e le chiedo anche, ma con Expo 2015, con questo grande fermento che c'è a Milano, che coinvolge un po' tutta Italia, avete notato qualche cambiamento sulle abitudini di ricerca dei vostri utenti, quelli che bazzicano il vostro sito, e poi adesso spieghiamo per quale ragione vi vengono a trovare. Allora, noi aiutiamo la gente a risparmiare. Come lo facciamo? Lo facciamo con un sito web e un'applicazione per smartphone che permettono di cercare le offerte in corso nei supermercati vicino a casa o di scaricare coupon digitali sul proprio telefonino. E quindi, avendo una lista della spesa come quella suggerita dai nostri esperti per il profilo del sedentario, è possibile cercare dove trovare i prodotti da acquistare e scoprire dove costano meno e dove si può risparmiare dal 30 al 50% con le offerte in corso. E se si va a piedi? Esatto, sì. E se si va a piedi si fa anche movimento. Bravo, perché un deboriano convertito al cuoriano. Questa poi è con questa. Adesso parleremo tra l'altro anche dell'inflazione, del carrello della spesa, del monitoraggio dei prezzi fatto da questo punto di vista, però vorrei andare subito al percorso di Cuore Denari Expo con il vostro contributo, perché anche Clicca Promo e Luciano Mazzone con la squadra di Clicca Promo seguirà ogni settimana la categoria protagonista della puntata, monitorando i prezzi di alcuni prodotti. Partendo dal menu elaborato dai nostri coach, ribadisco, gli ascoltatori possono trovarlo sul nostro sito speciale, affidiamo a voi la lista della spesa cercando di capire dove e quanto è possibile risparmiare. Facciamo subito qualche osservazione sui prezzi di questa settimana e sul risparmio che avete rilevato. Peraltro, la parola asparagi ci dice qualcosa? Beh sì, è uno dei prodotti stagionali che è più facile trovare in offerta in questo momento nei principali supermercati. Noi abbiamo cercato di valorizzare la lista che deriva dal menu predisposto dagli esperti e abbiamo notato che è una lista che a prezzo pieno si pagherebbe intorno ai 90 euro. Con le offerte in corso o con i coupon che offriamo si può scendere intorno ai 60 euro, quindi un risparmio di una trentina di euro che equivale a circa un terzo. No, perché ci si rifà anche metà spesa della settimana successiva, quindi non mi sembra proprio un risparmio di poco conto. Quali sono i prodotti che abbattono particolarmente il budget complessivo, quelli davvero convenienti in questo periodo, oltre agli asparagi che abbiamo già detto perché si trovano in offerta? Beh, allora, sulla lista ci sono degli evergreen, dei sempreverdi, come l'olio extravergine di oliva, che è uno dei prodotti più frequentemente promozionati e su cui in una botta sola è possibile risparmiare 3 euro, circa la metà del prezzo originale. Partendo da che prezzo? Glielo chiedo perché proprio lunedì abbiamo fatto una puntata su questo argomento e abbiamo dato anche qualche suggerimento per tenere sott'occhio le promozioni un po' esagerate sull'olio d'oliva, su quale non veniamo a patti quando parliamo di qualità. Assolutamente no, stiamo parlando di un olio che all'origine costerebbe 6,5 euro, 7 euro, che è possibile pagare intorno ai 3,5-4. Bravo, eccoci, ha sentito qua la puntata, vedi? Esattamente. Allora, poi complessivamente, ritornando a questo carrello che è stato elaborato, ribadisco, sulla base dei suggerimenti e delle ricette dati dai nostri coach che abbiamo già sentito nella prima parte del programma, i più costosi e meno costosi quali sono? I prodotti che hanno un prezzo importante sono per esempio la frutta secca, noci e mandorle, che fanno sicuramente bene ma hanno un prezzo non irrilevante. Però sono anche quelli dove ci sono opportunità di risparmio molto forti, per esempio sulle noci si può spendere il 35% in meno e sulle mandorle il 30%. Avendo un prezzo importante parliamo di 2 euro, 3 euro di risparmio solo sull'acquisto di questi prodotti. Però insomma il dottor Speciani lo sa perché questi sono tra i suoi alimenti preferiti, non è che dobbiamo fare la buffata di noci e mandorle. Certo. Eccoli un po' di... Però ci sono dati anche ora sulle noci e mandorle. Ancora ieri abbiamo lanciato un articolo sul fatto che noci, mandorle, nocciole in realtà riducono ampiamente la frequenza delle malattie cardiovascolari. I commenti sono: ah, ma ingrassano, ah, ma non possiamo prenderle. No? Calorie. In realtà, mangiati al mattino, mangiati come fonte proteica, mangiati in modo equilibrato, mi hanno reso famoso come dottor Noce, proprio come proposta. Penso, di noce è stato, è stato un nome che gli abbiamo dato noi. Dobbiamo mettiamo subito le cose perché in chiaro, che non vorrei che giornalista si appropriasse di questa. Dottor Noce di Cuore Denari, la collega giornalista che ha questo obiettivo. Luciano Mazzone, peraltro stavo guardando un po' tutta la verdura che viene proposta in questa lista della spesa che lei ha elaborato per noi. Non abbiamo l'insalata, quella preconfezionata che prima abbiamo un po' risponsorizzato con i nostri coach. Qua la verdura viene suggerita prevalentemente venduta in confezioni, non in confezioni sfuse. Mi sbaglio? No, è così, pomodori piuttosto che non la valeriana, l'insalata di le particolarità che abbiamo inserito in lista della spesa sono disponibili o sfuse oppure in alcuni casi già confezionate. Allora, sì, io qua intanto chiacchiera, siamo arrivati a suggerimenti per chi è in viaggio, non me ne sono neanche accorta, era così gradevole quello che stavamo dicendo. No, molto interessante, ma naturalmente adesso andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio, ma continueremo tra poco con i suggerimenti dei nostri esperti e con i nostri inviati. 800 24 00 24, candidatevi, è pronto per voi il kit dell'inviato, non è poca cosa. Cuore e denari. Voglio fare l'inviato su Marte per un telegiornale spaziale. Allora, c'è un ascoltatore che è più semplicemente andato a Verona al supermercato, posso dirlo, San Pancrazio, così i veronesi si riconoscono, trova gli asparagi bianchi a 3,99 euro al chilogrammo, verdi 1,49 euro. Mazzone, ci siamo? È sì, una buona offerta? Sono in prezzi abbastanza linee, chiaramente i verdi costano meno, questo è inutile sottolinearlo. Siamo sempre a Cuore Denari Expo, Nicoletta. Siamo sempre a Cuore Denari Expo, è tornato a trovarci il dottor Ungaro e in linea con noi abbiamo anche Stefano Polato, il dottor Attilio Speciale, alias dottor Noce. Insomma, ci siamo tutti per cercare di capire come si muoveranno i nostri esperti per convincere Anna Maria, categoria sedentaria, la nostra prima candidata, a aggiungere moto e salute, anche un cambiamento del suo stile alimentare secondo la filosofia Expo. Dottor Ungaro, abbiamo capito che la farà sudare un po' Anna Maria, quindi allenamento al mattino a digiuno perché rende di più per chi deve perdere peso? Ah, diciamo che lì ci sono due funzioni che dobbiamo in qualche modo tenere presente. La prima appunto è quella di stimolare il consumo di grassi, e ovviamente questo con un'attività di intensità moderata di tipo aerobico fatto a digiuno viene in qualche modo incentivato. La seconda invece componente, che è quella più di costruzione di tessuto muscolare, da fare chiaramente con dei sovraccarichi, quindi più facilmente con dei pesi, e invece attorno a questa l'introito di alimenti è fondamentale per generare quella risposta muscolare di sintesi proteica che è effettivamente quella che vogliamo indurre. Ricordiamo sempre che l'attività fisica di per sé ha un'azione distruttiva sui tessuti e fa bene nella misura in cui viene associata con una nutrizione corretta e un adeguato recupero. Quindi non è tanto lo stimolo dell'esercizio quello che fa bene, ma è lo stimolo riparativo che accade dopo l'attività fisica, e questo dipende moltissimo dalle scelte alimentari che faccio e dal riposo che permetto al mio corpo di ottenere. Abbiamo fatto i conti per il profilo di Anna Maria, ma in sostanza che cosa mangia, che cosa avete preparato per lei? Come sarà, come avete ribilanciato la sua dieta? Le piace molto l'insalata, ci ha raccontato che è equilibrata, moderata, è un po' flexitariana, sta riducendo non per motivi etici la sua, il consumo di proteine animali. Dottor Ongaro, Stefano, raccontateci un po', portateci a tavola da Anna Maria. Ma io mi limito semplicemente a dire che nel rispetto dei suoi gusti e delle sue tendenze dobbiamo appunto preservare un'alimentazione corretta anche sul piano dell'introito proteico, che per chi fa attività fisica ovviamente deve esserci, perché altrimenti quella risposta muscolare che voglio ottenere non la ottengo, e un adeguato apporto anche di alimenti energetici in modo tale da non essere troppo scarichi e stanchi per affrontare gli allenamenti. Lascerei a Stefano un attimino descrivere invece così la giornata tipo che ha previsto per Anna Maria. Sì, allora confrontandomi appunto con il dottor Ongaro abbiamo evidenziato e indicato cinque momenti utili per dedicarsi ai pasti durante la giornata. Quindi abbiamo la colazione, uno spuntino più o meno alle ore 10, il pranzo, lo spuntino delle 16 e la cena. E siamo in linea con la nostra concorrente perché abbiamo inserito in ognuno di questi appuntamenti frutta e verdura in abbondanza, e appunto come diceva il dottor Ongaro, le proteine sotto forma ovviamente di pesce, possibilmente pesce azzurro in molti casi, e in altri casi magari carne bianca o carne rossa molto selezionata. Ecco, questi sono un po' i dettami, diciamo, che abbiamo utilizzato per la nostra concorrente, la nostra sedentaria, e come dicevo prima tutte le preparazioni indicate sono preparazioni molto veloci. Tutto fa seguito alla stagionalità, quindi prima abbiamo parlato di asparagi, adesso qui voglio un attimo lanciare un'idea molto veloce e che va bene anche per il più pigro. Si prendono degli asparagi, si leva la parte più legnosa, più dura, con il pela patate si fanno delle striscioline e le si mette senza cuocerli in ammollo con un po' di olio extravergine di oliva, si fa una sorta di marinatura, sale, pepe e un goccio di limone. Ecco che dopo 5 minuti i nostri asparagi saranno belli morbidi da inserire ad esempio come ingrediente all'interno di una tanto amata insalata. Quando lo faccio perché io oggi ho comprato proprio gli asparagi, quindi si toglie la parte dura, quella bianca, poi si lavano bene, poi con la mandolina si affettano? Perfetto. Hai notato, mandolina? Si fa una marinatura veloce. Mandolina! Non è che è passata così inosservata. Stefano, di un po'. Esatto. Sì. No, quello che volevo dire è che quando Luciano Mazzone ha dato un'occhiata al regime alimentare che era stato così confezionato dai nostri coach per Anna Maria, ha detto, ma non sono poi così restrittivi, c'è lo spuntino, ma infatti qua bisogna abbattere certi pregiudizi sul tema di un regime alimentare corretto, no? Assolutamente sì. Le viene voglia di seguirlo, perché non solo, poi con tutti questi discorsi mi sta venendo fame perché siamo vicini a mezzogiorno. E il consiglio che mi sento di dare per la spesa è di non fare mai la spesa quando si ha fame al supermercato. È una delle trappole da evitare come la peste, perché avendo fame si compra molto di più e soprattutto si cede alle tentazioni. Polato ha detto preferire le carni bianche a quelle rosse. La lista della spesa di Clicca Promo c'è la spesa di tacchino invece del pollo. Che prezzi abbiamo qua? Datemi un attimo il tempo. È la prima proprio della lista. Ah, pardon. Abbiamo un prezzo che è inferiore ai 4 euro in offerta, con un risparmio anche in questo caso fra il 25 e il 30%. Del 27% rispetto al medio, al prezzo medio appunto che si può rilevare. Nicoletta, che punto la ricetta, siamo? La ricetta di oggi, Stefano, per la nostra Anna Maria? La ricetta di oggi, allora io lascerei, abbiamo parlato per più volte di asparagi, io farei un'insalata di pollo con asparagi. C'è la ricetta sul nostro sito e potrete vederla. Quindi, come dicevo prima, gli asparagi li facciamo marinati, il pollo invece andremo a cucinarlo con un po' di curry e in modo molto veloce, molto smart, faremo degli straccetti. In 10 minuti abbiamo un piatto completo. Ottimo, smart e veloce, esattamente come deve essere. La telefonata di Leda dalla provincia di Brescia, perché se no i nostri ascoltatori sono lì in attesa, penseranno che ci sono per scherzo. Leda, ce la fa? Velocissima a darci il suo messaggio? Sì, allora volevo invitare a correre e quindi avevo coniato questo slogan: correre fa per te, perché puoi farlo in solitudine, in compagnia, di giorno o di sera, per liberare la mente o per farla funzionare più creativamente. Brava Leda! Sedentari, incidetelo sulla pietra, portatevi inviata il masso. Leda, esatto, che riceverà a casa il kit dell'inviato. Ottimo. Dottor Ongaro, Stefano, noi ci sentiamo, esatto, per le prossime settimane. Luciano Mazzone, grazie, che tornerà più avanti nelle prossime puntate. Noi intanto in fretta andiamo al giornale radio, perché sennò e ci tagliano. E poi ci aspettano i mestieri del cibo. Sono Enrico Ruggeri. Questa settimana ha Il Falco e il Gabbiano 5 incredibili storie come nessuno ve le ha mai raccontate. Rasputin, il monaco maledetto. Tony Iommi, il padre del heavy metal, una storia scelta da voi. Traudl Junge, la segretaria di Hitler. Brian Clough, la leggendaria storia del più grande allenatore di calcio inglese. E il poeta maledetto Charles Bukowski. Vi aspetto su Radio 24 alle 15.30 a Il Falco e il Gabbiano. Cuore e denari. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna, è gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, sicuro, e verde oliva se viene l'inverno, a primavera si veste da sé. Vado a lavorare. Cuore e denari Expo, questo è il primo appuntamento speciale del mercoledì dedicato all'esposizione universale che si è aperta venerdì scorso a Milano, e questa è un'Expo che ci vuole portare all'essenza della terra, che nutre il pianeta, che dà energia alla vita. Parliamo di alimentazione sana, quindi, ma anche di lavoro, perché il cibo richiede lavoro, ma dà anche lavoro, e sono tanti i mestieri che nascono intorno al mondo dell'alimentazione e della nutrizione. Deborah. Proprio così, in questi appuntamenti li scopriremo uno dopo l'altro. Sicuramente avremo modo di imparare tante cose nuove, avremo modo di informarvi su opportunità lavorative a cui magari non pensavate, ma scoprire i mestieri del cibo sarà anche l'occasione per aprire un po' gli occhi su tutto il mondo nascosto, su tutta la storia che sta dietro ad un prodotto, proprio in quell'ottica di consapevolezza, sensibilità e responsabilità ad un consumo sostenibile che questa Expo vuole promuovere. Proprio in tema di mestieri del cibo è come sempre sul pezzo anche il Sole 24 Ore. C'è un progetto che ha esattamente questo titolo, che dà spazio su Food 24, che è il portale online del Sole 24 Ore dedicato proprio a cibo e vino, a queste professioni, e che sarà il nostro punto di riferimento nel corso di questi mercoledì. Intanto abbiamo raccolto una presentazione di questo progetto dalla responsabile, la collega Fernanda Roggero. Iniziamo a sentire cosa ci ha raccontato. Food 24, la sezione online del Sole 24 Ore che si occupa dell'economia del cibo e di quella del vino, ha avviato un progetto per andare a raccontare tutta questa nuova serie di mestieri, dal personal trainer degli otto urbani al food tracker che gira per le città con un'ape o un furgone riciclato offrendo pasti gourmet, ma anche un nuovo modo di fare il barman, adesso si chiamano mixologist, o il sommelier della birra, il cercatore di erbe spontanee. Sono tanti i mestieri da raccontare e noi lo faremo invitando i testimonial, ma anche analizzando le concrete opportunità di lavoro, come e in quali modi si fa formazione, qual è il borsino delle retribuzioni. Avremo una grande attenzione ovviamente a tutto l'universo digitale, da cui ormai chiunque voglia inventarsi un mestiere non può prescindere, ma non vogliamo dimenticare ambiti già esplorati, che non sono però per questo meno interessanti, come il packaging, che è sempre più innovativo, o le mille frontiere del food design. Oscar Farinetti, che di Made in Italy se ne intende, ripete sempre una cosa: all'estero vogliono tutti vivere come noi, vestirsi come noi, mangiare come noi. Basterebbe riuscire a dar loro quello che chiedono, e in effetti qualcosa si sta muovendo, perché le nostre esportazioni negli ultimi 10 anni sono raddoppiate. Il comparto agroalimentare, che è anticiclico per eccellenza, anche negli anni in cui la crisi mordeva di più, è riuscito a creare lavoro, e questa è una cosa che noi continuamente indaghiamo su Food24. È un settore che vale quasi 120 miliardi di euro, l'8,7% del PIL, che sale al 14% se si considera l'indotto, e copre il 14% dell'intera occupazione nazionale, con 3,3 milioni di lavoratori. Negli ultimi anni, proprio in questo settore, continuano a fiorire nuove professioni. Forse ha aiutato l'enorme sovraesposizione degli chef e quindi la sovrabbondanza di trasmissioni televisive legate al cibo. Ad ogni ora del giorno c'è qualcuno che spadella su qualche canale della televisione, e non ha torto Carlo Pietrini di Slow Food a definire certi eccessi pornografia gastronomica. Però un lato positivo c'è, perché questo gran parlare di cibo ha stuzzicato l'interesse e la creatività di molti giovani, e sono moltissime le start-up legate al mondo del food, alcune estremamente valide e di successo. Proprio su queste start-up torneremo tra poco, però quello di oggi è uno spazio introduttivo al viaggio che faremo. Per l'occasione abbiamo invitato e salutiamo anche Mario Bavassori, presidente HR Pros, una società di consulenza, professore aggiunto al Politecnico di Milano, per il quale presiede l'osservatorio Job Pricing. Buongiorno professor Bavassori, benvenuto. Buongiorno Deborah. Come Job Pricing avete realizzato, proprio in occasione di Expo, uno studio che analizza il mercato del lavoro dell'intera filiera del cibo in Italia. Come si è svolta questa analisi? Cosa avete scoperto, Bavassori? Ma noi abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo anche al dibattito e all'inaugurazione dell'Expo attraverso questa ricerca. Il nostro portale raccoglie e fornisce informazioni legate ai mestieri, diciamo, legate alle professioni, in particolare legate al valore che una professione ha oggi nel mercato. Abbiamo raccolto nel 2014 oltre 200.000 profili di lavoratori dipendenti in Italia, e tra questi abbiamo individuato quelli che sono nella filiera del cibo, diciamo, quindi nella filiera che è di nostro interesse in questo momento, ed è in particolare l'interesse dell'Expo. Certo, allora come si presenta il mercato del lavoro del food in Italia? Quali sono gli aspetti più rilevanti? Ma come diceva appunto l'intervento Fernando di prima, rappresenta appunto il 14% con l'indotto, ed è quindi del nostro PIL, è un settore assolutamente strategico, con una quota di export che è in crescita. Donna di cuore deve intervenire perché mi fa male sentirla. Beva un sorso d'acqua. Professor Bavassoni, sono Nicoletta. Lasciamo schiarire la voce. Io sono invece sempre quella un po' più streghetta. Perché? Del programma. Poi abbiamo anche il dottor esatto, Speciani. Cosa quasi sarà questa? No? Perché bisogna idratarsi un po' e sì, passa. Sì, bisogna. Abbiamo bisogna. Anche un po' no? un intervento. Professore, ci siamo? Sì, ci sono, l'allergia purtroppo. Meno male che c'è la donna di cuori. Esatto. Grazie, quindi insomma abbiamo ribadito le cifre che movimentano il settore agroalimentare esatto, italiano. Andiamo però ai profili professionali sui quali avete indagato. Per individuare i profili professionali abbiamo seguito un criterio abbastanza scientifico. Abbiamo cercato di capire quali sono i processi intorno ai quali si sviluppano questi mestieri. E ne abbiamo appunto individuati 4. Il processo industriale, che è il cuore di tutta la trasformazione industriale, che però è alimentato dall'agricoltura e dall'allevamento. Ecco, solo nell'allevamento e nell'agricoltura noi oggi abbiamo 25.000 imprese attive, e quindi con una presenza peraltro di personale con età elevata, purtroppo. Ha bisogno di un ricambio questo settore. L'industria che ne occupa, che rappresenta è rappresentata da 57.000 imprese, è il cuore pulsante che trasforma il bene primario in bene fruibile. Poi c'è tutta la parte del terziario, che distinguiamo in commercio, grande distribuzione da una parte e servizi di ristorazione. Ecco i 3 milioni di addetti e le 600.000 imprese. Certo. Per chi volesse, peraltro questo studio è pubblico, per cui si possono anche andare a reperire delle curiosità relativamente alle retribuzioni per questi profili professionali, ma diamo un'informazione concreta ai nostri ascoltatori, Vavassori. Quali sono le professionalità più ricercate anche dal settore, in modo tale che se qualcuno in questo momento fosse a spasso e volesse reinventarsi in questo campo, speriamo non a caso perché è una professione che richiede anche in ogni ambito grandissima preparazione, ci sono ruoli molto ricercati ma con pochi candidati? Ma guardi, da una ricerca anche abbastanza recente di Excelsior dell'Union Camera risulta appunto che il settore che chiede di più oggi è il settore della ristorazione. Il problema di questo settore è che è un settore molto instabile, molto, molto variabile, no? La stagionalità la fa da padrone in questo settore, ci sono previste peraltro nel prossimo anno migliaia e migliaia di assunzioni, ma assunzioni prevalentemente temporanee. Questo settore rappresenta un po' le professioni di passaggio, no? Molti giovani operano in questo settore e poi passano a miglior vita, vanno a lavorare negli altri settori. Ma qual è il settore o quali sono le professioni più interessanti? Non c'è una risposta facile a questa domanda. La risposta che io do sempre e che credo è più una chiave di lettura, è necessario capire se il valore che io porto con la mia attività è un valore aggiunge valore all'oggetto che io manipolo, che io tratto. E l'aggiunta di valore oggi, il valore aggiunto in tutte le attività è rappresentato in particolare dalla qualità del prodotto. Noi siamo nella fase finale probabilmente di una centralità della quantità di prodotti e stiamo passando invece a una centralità della qualità del prodotto. E allora tutte le professioni che hanno a che fare, come il tecnologo, il biologo, il tecnico di laboratorio, figure di questo tipo, ma anche figure legate alla commercializzazione, il visual merchandising, il promotore, eccetera, sono tutte figure che in questo momento aggiungono valore e aggiungono valore alla qualità. Benissimo. E danno qualità al nostro lavoro. Allora lasciamo che i nostri ascoltatori prendano spunto da questi suggerimenti. Io ringrazio Mario Vavassori per essere stato con noi, le auguro buon lavoro. Noi avevamo lasciato in sospesi il contributo della nostra Fernanda Ruggero sul mondo molto vivace delle start-up nel settore del food, del cibo. Sentiamo allora che cosa ci ha raccontato anche su questo. Cibando, con un database nazionale di 150.000 foto e 7.000 recensioni di ristoranti, è stata acquistata per 6 milioni di dollari dall'indiana Zomato, che è una piattaforma globale per la ricerca di ristoranti e che intende costruire una guida più completa possibile anche per il mercato italiano. Rocket Internet, che è un gruppo tedesco di e-commerce con un network globale in 39 paesi, ha acquistato Pizzabò, una startup fondata 6 anni fa a Bologna, e MyTable, nata a Torino, oggi fa parte di TripAdvisor. Il PoliHub, che è l'incubatore gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano, supporta startup fortemente innovative proprio per trasformare i risultati della ricerca scientifica in applicazioni industriali. Cuore e Denari Expo. Carina, questa sigletta che segna il momento dell'editoriale. In ogni puntata, infatti, ci sarà uno dei nostri esperti che tirerà un po' le fila della puntata, ma ci aggiungerà, come sempre, un po' di gusto e sapore dal punto di vista della ricerca, dei cambiamenti, degli spunti per mangiare meglio, spendere bene, cucinare anche meglio. Dottor Speciani, e credo che in questo caso in cui ci raccontiamo due temi sul mais che è estremamente interessante, perché intanto il mito Maya addirittura diceva che fossero gli uomini, no? Fossero modellati da un impasto di farina di mais ed acqua, per dare l'idea dell'importanza che aveva in altre culture. Gli indiani d'America, per loro la parola mais significa ciò che mantiene in vita, quindi è una interessante. Noi l'abbiamo scoperto solo dal 500 in avanti fondamentalmente, dove però ha preso bene. E io ci tengo a dire questo perché ad esempio dove tra Raimaya, dove nella cucina sudamericana tendenzialmente negli aztechi c'era l'alcalinizzazione delle farine di mais, e questo consentiva la liberazione di una particolare vitamina che si chiama vitamina PP, che è all'interno del mais. Senza quella, quindi senza avere questa liberazione, quindi con i metodi di cottura tradizionali che ha usato tutta il nord Italia, tutte le campagne, anche in nord Europa, in realtà veniva la pellagra, cioè c'era una malattia. Ma pensiamo come un semplice modo di cucinare un cibo, quindi alcalinizzare le farine come preparazione tradizionale oppure cuocere in maniera usuale, caratterizza una visione che è una visione di ricchezza e una visione di povertà. Allora, è per questo io credo che alla fine di un discorso come quello di oggi, dove abbiamo considerato come i segnali che possiamo dare all'organismo attraverso la cucina, le scelte di come mangiare e riuscire a motivare le persone abbinando quindi la parte fisica, la parte psichica, perché abbiamo ragionato di motivazione, e la parte conoscitiva, sia il tema che vogliamo portare avanti, che vogliamo proseguire. Quindi con simpatia questo dato. C'è una curiosità che voglio dire: perché lo chiamiamo grano turco? Lo chiamiamo grano turco perché un tempo si dava l'appellativo di turco come orientale che veniva dall'estero, cioè era una notazione un po' strana e divertente. È rimasta questo appellativo, era come se fosse il grano esotico, no? Come dire, per una tradizione culturale. Tra l'altro il mais è uno dei prodotti, esatto, che compongono foodie. Esatto. Eh sì, bene, abbiamo parlato apposta. Perché l'abbiamo scelto, esatto. E si ritrova anche in una delle ricette di Stefano Polacco. E anche monitorato anche da Clicca Promo. Esatto, anche se Luciano Mazzone preferisce il farro, come mi ha raccontato prima, però il mais va monitorato perché comunque è oggetto di grande consumo da parte degli italiani. In scatola o meno? Assolutamente sì, soprattutto in questa stagione dove va per la maggiore nelle insalate e si trova in offerta, ecco, più frequentemente. Ecco, è una buona idea aggiungerla all'insalata, dottor sì, Speciani, sì, di solito, perché di solito... io vedo delle insalate così ricche, però guardando un po' l'abbinamento tra i vari prodotti mi sembrano esageratamente ricche, forse sbilanciate. Ma diciamo che è come se uno portasse, è un carboidrato ricco di calorie che devono essere correttamente bilanciate, cioè uno lo pensa come insalata, quindi con la stessa caloricità di un finocchio o di un gambo di sedano, in realtà è come se mettesse dentro delle fette di pasta asciutta. Esatto, no? Ma con il barattolo qualche additivo, dottore, perché prima parlavo con Luciano Mazzone di come ci piacerebbe tornare a consumarlo come ce lo faceva la nostra nonna, a me lo metteva sui carboni ardenti del fuoco. E poi te fuoco, ti sei trovato della in carbone. Pennocchia, no? Dipende, perché lì bisogna andare a guardare bene le etichette e correggere. Io amo, lo uso, essendo una persona con delle reattività alimentari lì, uso le mie gallette di estrusi di mais sottofile buonissime che vado a prendere nelle langhe e che sono fantastici, che sono fantastici. Il mais nero al buono. Mondo al quale lei mi ha introdotta perché molto ce le ha fatte anche assaggiare, sì. Poi creano dipendenza, esatto. Ma abbiamo parlato di mais, ma noi abbiamo parlato, Deborah, hai mandato tutti i tuoi inviati a cercare gli asparagi, eccola la salata. Esatto, allora Roberta si candida, vediamo se la merita. Buongiorno. Se lo merita il kit dell'inviato. Roberta da Bassano del Grappa, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora sì, io provengo da una zona dove la coltivazione dell'asparago abbiamo preso la DOP e quindi ce la coltiviamo, io personalmente me la coltivo anche in casa. Se poi mi permettete, vi volevo dare il mio slogan per gli stressati pigri come me, e quindi sarebbe movimento, movimento, cuor leggero e medico contento. Non è male. Cos'è che allora, ha detto gli stressati? Roberta, e che l'esasperazione del sedentario. Ecco. Attenzione, perché noi, i nostri profili si intrecciano e potete compilare più di un questionario perché vi riconoscete in più di un profilo, come ci ha raccontato Roberta, che merita naturalmente il perché si può essere sedentari, si può essere stressati, si può essere sedentari, stressati over 50, di cui si occuperà il dottor Speciani. Esatto, ma comunque coltivare ottimamente venite degli spinaci, degli asparagi. Sì. E quindi a Roberta? A Roberta mandiamo il kit dell'inviato, se la merita. Grazie mille. Siete le mie ragazze preferite, comunque sappiatelo. Grazie, anche lei. È una buongustaia e grazie per le ragazze, che ci fa molto piacere. Esattamente. Ottimo, questa prima puntata è andata, ne siamo molto contente. Ritorneremo mercoledì prossimo con la seconda tranche di Cuore Denari Expo. Qualche messaggio si da dare sul finale? Sì, io voglio tutti gli over 50, davvero. lavoro su una visione trasversale, c'è veramente tantissime cose da raccontarci, piccoli trucchi che devono inventare quotidianità. Entrate, registratevi nel sito, compilate il questionario, perché già conoscervi è un punto di partenza importante. La persona che seguirà come faro, come riferimento, verrà guidata anche dalle ricette di Andrea Ribaldone e dalle indicazioni che darò io per le prossime 4 settimane. Ottimo. Per riconquistare forma e benessere. Over 50 smaglianti. Esatto. Ma senza scudisciate se non mangiano le proteine. Introdurremo al mondo delle proteine. E intanto seguite la nostra sedentaria. Andate a vedere le ricette, i consigli del dottor Ongaro. Scrivete che cosa vi piace, che cosa non vi piace. Date i consigli. Insomma, attiviamoci. Diventiamo una comunità. Ottimo, abbiamo terminato. Noi con Cuore Denari ritorniamo domani. A tutti, grazie e buona giornata.